Tre vittime a Prato per il maltempo sono rimaste intrappolate con l'auto in un sottopassaggio. Ungheria, almeno 4 morti e 120 feriti per la fuoriuscita di fanghi chimici. Reggio Calabria minacce a Pignatone un bazooka trovato davanti al tribunale. Tra aziende e sindacati serve un patto per la legalità, lo propone Ivan Lobello a Radio 24. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Maltempo dunque in apertura. È stata una giornata molto molto pesante. Dopo la Liguria, la Toscana è in ginocchio. Allora partiamo proprio da qui, in diretta con Ubaldo Cianciulli. Ubaldo, ci sono state anche 3 vittime. Raccontaci cosa è successo. Sì, buongiorno, è stata una nottata veramente tragica. La zona di Prato è quella più colpita dall'ondata di maltempo che questa notte si è abbattuta sulla Toscana, e proprio a Galciana di Prato sono morte 3 donne cinesi annegate nel sottopasso ferroviario in via Ciulli. Erano in auto, stavano andando al lavoro, 2 sono rimaste intrappolate nel veicolo e i corpi sono stati estratti dai familiari accorsi in aiuto. L'altra vittima è uscita dall'auto ma è annegata ed è stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze stamani, che si sono trovati davanti a una montagna di 6 metri di acqua. Intanto si ipotizza come causa dell'allagamento del sottopasso che è costato la vita alle 3 donne cinesi un malfunzionamento dell'idrovore. Lo afferma l'assessore alla protezione civile del comune di Prato, Dante Mondanelli. L'idrovore infatti dovevano assicurare uno svuotamento del sottopasso convogliando l'acqua nel sistema fognario, ma questo non è accaduto, forse per la forte pressione inversa. La procura di Prato ha comunque aperto un'inchiesta. Già 10 anni fa questo sottopasso ferroviario era stato spiegato, ma fortunatamente non ci furono vittime. Intanto sono 200 gli interventi dei vigili del fuoco di Prato, eseguiti sia in città che in provincia, ma allagamenti e danni si registrano anche nelle province di Pistoia e Pisa, più contenuti a Firenze e provincia. La pioggia ha ingrossato molti fiumi e torrenti, ha causato incidenti stradali, per fortuna di lieve entità, soprattutto sull'autostrada del Sole e sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno. Anche la statale 66 a Siano, siamo sempre nel Pratese, è stata chiusa per allagamento. E della Toscana per il momento è tutto. Grazie Ubaldo, tempo in miglioramento ma ancora forti disagi in Liguria, a Varazze, dove 7 famiglie che vivevano in una palazzina hanno avuto la casa sventrata da una frana e sono state fatte allontanare dai vigili del fuoco. Il sindaco di Varazze, Giovanni Delfino, descrive così la situazione. Il terreno è gonfiato, si stanno muovendo anche altre frane, però devo dire che il nostro è un paese meraviglioso, perché abbiamo ricevuto solidarietà e soccorso e aiuto da tutti, e direi che già nella giornata di ieri sono stato 3 volte fino alle 2 di notte sui luoghi più disastrati e la situazione almeno sulla viabilità principale migliorava, per il Pero, per il Sassello, sulla viabilità secondaria in alto migliorava, rimane quella zona assolutamente disastrata che è la provinciale per Casanova. Quella è una zona che non so quando riusciremo a recuperare. Io comunque per precauzione ho ancora chiuso le scuole per domani, in modo da evitare che ci siano in circolazione dei pulmini, degli scuolabus e dei bambini. Quindi per domani le scuole sono ancora chiuse, poi vedremo, valuteremo di giorno in giorno cosa fare. Ancora cronaca, ma dalla Calabria, da dove arriva la notizia di un ennesimo atto di intimidazione ai danni dei magistrati. Un bazooka è stato trovato dalla polizia davanti al tribunale di Reggio dopo una telefonata anonima in cui sono state rivolte minacce al procuratore Pignatone. Da stamattina è in corso a Reggio un'operazione di polizia per l'esecuzione di 250 perquisizioni nell'ambito delle indagini sulle intimidazioni compiute ai danni proprio di magistrati della Procura della Repubblica e della Procura Generale. Insomma, un clima molto molto pesante, del quale parliamo con Roberto Galullo del Sole 24 Ore. Roberto. Sì, buongiorno a tutti. Il clima è molto pesante. La prima sensazione, la prima considerazione da fare è che ci troviamo di fronte ad un pendolo. Le intimidazioni oscillano tra la procura distrettuale antimafia e la procura generale. E oggi è toccato alla procura distrettuale antimafia nella figura di Pignatone, il capo della procura. La seconda riflessione da fare è che questa non è più soltanto una strategia di 'ndrangheta, ma una vera e propria strategia terroristica. Mai si era assistito prima al fatto che la 'ndrangheta rivendicasse un atto intimidatorio. La 'ndrangheta non ha bisogno di rivendicare, e questo apre ovviamente scenari inquietanti sulla presenza anche di una, come dire, di una borghesia mafiosa di menti eccelse che possono essere dietro anche ad alcuni atti intimidatori. La terza considerazione da fare è che mai come in questo momento, e quindi in città molti temono il botto, vale a dire un atto eclatante, mai come in questo momento in città e in provincia circolano tante armi, bazooka, kalashnikov, e questo sarebbe niente, ma enormi quantitative partite di tritolo e di plastico. Questo vuol dire soltanto una cosa, che è entrato in campo anche il gota dell'andrangheta calabrese, che obiettivamente può colpire come e quando vuole. Grazie Roberto Galullo per questa analisi molto semplice, ma decisamente che conferma i nostri timori, e cioè di un clima che è diventato molto molto pesante. E dopo l'arresto nel fine settimana di un sindacalista colluso con l'andrangheta, lancia un patto per la legalità tra imprese e sindacati il presidente di Confindustria Sicilia, Iva Lobello. Tra il sindacalista e i mafiosi, molti dei quali erano anch'essi lavoratori in quella stessa fabbrica, chiamiamola fabbrica, c'è una specie di gioco di sponda che viene fuori proprio in occasione dei momenti di crisi, cioè quando si devono fare le liste per dei lavoratori da mettere in cassa integrazione, quelli che devono ricevere una diminuzione di stipendio. Il primo a dirlo è stato ai nostri microfoni, l'avete sentito, domenica scorsa il procuratore di Reggio Calabria Pignatone. L'infiltrazione dell'andrangheta nelle aziende non passa solo attraverso il pizzo o le intimidazioni agli imprenditori. Tutto in quel caso nasceva da un'indagine specifica che ha portato in carcere un sindacalista di un'azienda che si occupava della pulizia dei treni a Reggio Calabria. Ma il fenomeno non si ferma qui, dice oggi Iva Lobello, che da presidente di Confindustria Sicilia ha lanciato la battaglia per allontanare le aziende colluse con la mafia. La criminalità, dice Radio 24, ha tante vie per condizionare le imprese e tutti, e non solo al sud, devono vigilare. Abbiamo diversi casi in cui sono proprio i lavoratori infiltrati dalla mafia, dall'andrangheta, dalla camorra ad essere delle teste di ponte. Molto spesso il pizzo si paga anche facendo lavorare uomini di Cosa Nostra, a Mezzogiorno ma anche nel resto del paese. Noi abbiamo avuto evidenze di questo tipo per esempio nel Piemonte, nella zona di Asti, quindi fungi da me accusare il sindacato. Proprio per questo io credo che ci sia bisogno oggi su questi temi di un patto nuovo per contrastare le infiltrazioni mafiose, ripristinare la legalità in azienda, sia nelle zone del paese, sia in alcuni settori del nord del paese dove questo sta cominciando ad avvenire. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica con Futuro e Libertà che si riunisce per diventare un vero e proprio partito, prima pietra questo pomeriggio alle 14 quando si insedierà il comitato promotore. In diretta da Roma Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così Anna Rita, era già stato annunciato nei giorni scorsi, nasce un nuovo partito, quello che fa riferimento al Presidente della Camera Gianfranco Fini, e tra un'ora si insedierà il comitato promotore di Futuro e Libertà qui in via del Seminario. L'organismo seguirà la nascita della nuova formazione, mercoledì la riunione per il manifesto programmatico e l'assemblea costituente nell'ultima settimana di gennaio a Milano. Tra i fondatori anche Flavia Perina, che smentisce ai nostri microfoni che Futuro e Libertà sia una piccola N. Sentiamo. Oggi parte un percorso fondativo che immaginiamo si concluderà in un congresso di fondazione vero e proprio nell'arco di 2 o 3 mesi. Ci sono tutte le intenzioni tranne quella di fare una piccola N. Noi immaginiamo una destra di tipo europeo, aperta, plurale, che è capace di essere quello che il PDL non è riuscito a essere. È un partito che ambisce a rappresentare un altro centrodestra e che ambisce a rivolgersi anche a aree sociali che al momento il centrodestra ha completamente dimenticato, e penso ai giovani. Intanto nel PDL c'è nervosismo, il capogruppo a Montecitorio Fabrizio Cicchitto annuncia un vertice domani tra PDL, Lega, FLI e Noi Sud per verificare la lealtà al governo e i numeri parlamentari. Tutto ciò alla vigilia di un'importante scadenza della legislatura, quello del rinnovo dei vertici delle commissioni parlamentari, e alla Camera gli uomini di Fini sono determinanti. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie Elisabetta, noi restiamo però a Roma con le parole che ha pronunciato proprio poco fa il ministro Tremonti sui conti pubblici in diretta, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, gli obiettivi 2010 dei conti pubblici saranno rispettati, lo ha assicurato il ministro dell'economia Giulio Tremonti dopo che ieri l'Istat aveva certificato un deficit nel primo semestre pari al 6,1% del prodotto interno lordo. Il target annuale del governo è il 5%. Assicuriamo la più assoluta conformità con gli obiettivi, siamo in linea, non prevedo, ha detto Tremonti in un'audizione qui alla Camera, scostamenti rispetto agli obiettivi. Sul fronte delle decisioni anticrisi Tremonti rimanda dunque a Bruxelles Bruxelles e spiega: c'è un fondamentale bisogno di decisioni di politica economica, ma solo su un paradigma europeo coerente con la nuova sessione di bilancio. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, e intanto oggi un nuovo record per l'oro, mentre arrivano novità importanti dal Giappone. Tra pochissimo ascolteremo il servizio della nostra Valentina Furlanetto, che si riferisce a questi dati. Mi dicono dalla regia che è pronto, ascoltiamolo. È una vera e propria corsa all'oro quella che sta facendo toccare al metallo giallo nuovi record: a Londra a $1,328 l'oncia, a New York a $1,329. In rialzo anche l'argento, oltre quota $22, al valore massimo da 30 anni. La causa, secondo gli esperti della banca UBS, è la scelta da parte di numerosi investitori miliardari di comprare direttamente lingotti, talvolta a tonnellate, spostando risorse fuori dal sistema finanziario nel timore che l'economia resti debole. Intanto preoccupano sui mercati valutari la forza di yen e yuan, la moneta giapponese e quella cinese. La Banca Centrale del Giappone ha annunciato oggi una riduzione a sorpresa del suo tasso di interesse in una forchetta compresa tra lo 0 e lo 0,1%. A Bruxelles, a margine del vertice Europa-Asia, il presidente dell'Eurogruppo, Juncker, ha detto che il tasso di cambio fra yuan ed euro è sproporzionato e questo può indebolire la ripresa della zona euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed oggi a Roma si concludono i lavori dell'ottava giornata della ricerca e innovazione di Confindustria, l'Italia nell'Europa 2020. La presidente Emma Marcegaglia interverrà tra circa mezz'ora. Alessandra Schepisi ha intervistato il ministro Gelmini, che ha partecipato ai lavori di questa mattina. Manca sicuramente molto per raggiungere quel 3% di investimenti in ricerca rispetto al PIL, però l'impegno del governo c'è, non solo quello della sottoscritta che è scontato, ma anche quello innanzitutto del presidente Berlusconi e del ministro Tremonti. Se noi reimpostiamo la macchina della ricerca, dell'innovazione, superiamo gli steccati tra pubblico e privato e improntiamo la ricerca universitaria a nuove regole fatte di trasparenza, di merito, di valutazione, sono convinta che quel traguardo che oggi sembra molto lontano e ambizioso del 3% in realtà è un traguardo al quale l'Italia può tendere in tempi ragionevoli. Dopo le polemiche sull'assegnazione del Nobel per la medicina non gradito al Vaticano, oggi è stato assegnato il Nobel per la fisica. In rete c'è chi li definisce i soliti noti. Loro sono due fisici russi della scuola di fisica e astronomia della Manchester University, Andrei Geim e Konstantin Novoselov. I due hanno ottenuto il riconoscimento, si legge nel comunicato, per i loro pionieristici esperimenti sul grafene, un materiale di carbonio bidimensionale. Qui è lo stesso Geim che spiega i suoi studi. Ottenuto dalla comune grafite, si tratta di una molecola talmente piccola che è fuori luogo parlare anche di nanotecnologia, visto che un millimetro di grafite è formato dalla sovrapposizione di 3 milioni di strati di grafene. Potrebbe rivoluzionare il settore dei computer, aumentando la velocità con cui i PC eseguono calcoli. Altro possibile uso è la ricerca per sviluppare nuovi farmaci. La membrana, grazie alla sua sottigliezza, potrebbe servire come sostegno di molecole analizzate al microscopio, permettendo immagini più nitide, specie per quanto riguarda le proteine, giudicate la chiave per una nuova generazione di medicinali. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il sondaggio di oggi di Bianconero parlava di allarme e terrorismo in Europa. In Francia ci sono stati 9 arresti, uomini sospettati di essere legati all'uomo di origine algerina che era stato poi arrestato sabato scorso a Napoli. 9 arresti, ripetiamo, in Francia. Noi vi chiedevamo in particolare se avete paura di viaggiare in questo momento per via di queste minacce. Il 78% di voi ha risposto di no. Fanghi velenosi, 4 morti, numerosi ustionati, stato d'emergenza in Ungheria. 3 vittime a Prato per il maltempo sono rimaste intrappolate con l'auto in un sottopassaggio. Condannato Kervielli, il super trader di Société Générale, le sue spericolate operazioni causarono perdite per 5 miliardi di euro. Tra aziende e sindacati serve un patto per la legalità, lo propone Ivan Lobello a Radio 24. parliamo di questo, partiamo dall'Ungheria, lo avete sentito anche nei nostri titoli, una vicenda assolutamente agghiacciante, fanghi chimici che fuoriescono da una fabbrica e ci sono delle vittime. Ci aggiorna in diretta Laura Bettini. Buongiorno, sì, come dicevate da studio è salita a 4 il bilancio delle vittime di questo disastro ambientale avvenuto nell'Ungheria occidentale, dove masse di fango rosso, denso di residui tossici della produzione dell'alluminio, si sono riversati dopo la rottura di un argine che li tratteneva all'esterno di uno stabilimento di lavorazione dell'alluminio. Il fiume di fanghiglia ha poi raggiunto i villaggi vicini con un'onda che in alcuni casi ha toccato i 2 metri d'altezza e centinaia sono le case attraversate da questi fanghi. La sostanza non è solo tossica in caso di ingestione, avvertono i medici, ma provoca anche bruciature a contatto con la pelle. Ferite superficiali possono a giorni di distanza causare gravi problemi. Le vittime, dicevamo, sono 4. L'ultimo corpo rinvenuto è quello di una bambina di 1 anno morta nella sua casa invasa dai fanghi. Ci sono almeno 7 dispersi e 120 feriti. Nella zona interessata, circa 160 chilometri da Budapest verso ovest, verso il confine con l'Austria, è stato dichiarato lo stato di emergenza e lavorano protezione civile e militari. Per ora è tutto. Grazie a Laura Bettini. Dunque una vicenda davvero agghiacciante che continueremo a seguire nel corso di tutta la giornata. Ancora dall'estero, Jérôme Kerviel, l'ex trader di Société Générale, è stato condannato oggi a Parigi a 5 anni di carcere e a una multa di 375.000 euro. Kerviel, che nel 2008 ha causato una perdita di 5 miliardi di euro alla banca, è stato riconosciuto colpevole di abuso di informazioni privilegiate, falsificazione, contraffazione ed introduzione di dati fraudolenti in un sistema informatico. Nessun ferito ma gravi danni per l'esplosione di una bomba davanti ad un centro commerciale a Londonderry, nell'Irlanda del Nord. Nonostante il percorso di pace intrapreso nel 98, quest'anno sono già decine gli attentati o tentati attentati ai danni delle forze dell'ordine. Sentiamo Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Il gruppo uscito dall'IRA al momento degli accordi di pace, il gruppo degli irriducibili, pensa di avere oggi una probabilità maggiore dopo tanto tempo, perché il processo di pace si scontra con problemi economici, di sviluppo, eccetera, dovuti anche in parte alla crisi economica generalizzata, e forse con una minore attenzione del governo di Londra. Tenga presente che ormai al governo dell'Ulster sono stati delegati tutti i poteri di polizia interna, per esempio, il che potrebbe far pensare alla possibilità di un'azione più decisiva. I 33 minatori intrappolati dal 5 agosto a 700 metri di profondità in una miniera di San José nell'estremo nord del Cile potrebbero essere messi in salvo presto. Ne è convinto il coordinatore delle operazioni di soccorso. Pochi giorni ancora, i 33 minatori cileni imprigionati a 700 metri di profondità potrebbero rivedere la luce la prossima settimana. Proprio 2 mesi fa, il 5 agosto, un cedimento strutturale della miniera li ha bloccati nelle viscere della terra. I minatori non hanno più potuto risalire. 15 giorni dopo, il 22 agosto, una sonda ha raggiunto il rifugio sotterraneo nel quale hanno trovato riparo e i soccorritori hanno inviato ogni giorno cibo e generi di conforto. Subito dopo sono iniziati gli scavi con delle perforatrici speciali. Una di queste ha praticato un foro di 70 cm di diametro attraverso cui verrà calata una capsula simile a un piccolo ascensore, da cui uno alla volta i minatori potranno risalire. Se tutto andrà bene sarà un grande giorno, è la prima volta che viene effettuato un recupero a questa profondità, 700 metri. Roberto Darin, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Buenos Aires. Ancora una notizia dall'estero dell'ultima ora che arriva da Teheran. I figli di Sakineh hanno paura e chiedono asilo politico all'Italia e a Silvio Berlusconi. 2 ragazzi iraniani di 22 e 18 anni si sentono sempre più in pericolo nel loro paese e stanno cercando un posto nel mondo dove rifugiarsi. Temono ovviamente anche per la sorte della madre, la donna iraniana che, lo sapete, è stata condannata a morte e per la quale c'è una mobilitazione in tutto il mondo. Adesso torniamo in Italia, parleremo anche di cronaca, tra poco, di un episodio terribile che è avvenuto a Bari. Adesso però il nostro appuntamento con l'Italia che rialza la testa dopo la crisi. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Il 2010 vede una crescita significativa verso il 2009. Siamo ad oggi a circa un più 11% di fatturato. Anche per noi il 2009 è stato difficile, perso poco più del 10% di fatturato. A pilotare la ripresa di De Fonseca è Fausto Ortolani, amministratore delegato dell'azienda torinese partecipata per l'85% dal fondo Star Capital SGR, leader nel mercato della pantofoleria e delle calzature per il tempo libero. Presso la sede di Leini lavorano più di 100 dipendenti e ogni anno sono disegnate e progettate due collezioni. Ecco la ricetta. Ha avuto qualche aspetto positivo la crisi, perché ci ha portato a guardare ad altre opportunità che magari prima non guardavamo. Per noi l'innovazione vuol dire nuovo design, nuovi modelli, nuove linee di prodotto, ma sostanzialmente reinterpretare la pantofola in un modo più cool, più divertente, più italiano. Questo ci ha dato uno spazio molto forte di ingresso su mercati molto grandi. L'export sta giocando un ruolo molto forte, Stati Uniti o il Giappone, dove quasi con il nostro stupore, devo dire in maniera onesta, siamo stati accolti quasi con entusiasmo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La regione Lombardia può procedere ad azioni di disincentivazione nel caso in cui le imprese delocalizzino, compresa la revoca delle misure a sostegno. Questo è il senso di un emendamento che è stato presentato dalla Lega Nord ed inserito nel piano di sviluppo regionale, piano approvato dal Consiglio e dunque operativo. Sentiamo Stefano Galli, consigliere regionale capogruppo della Lega, al microfono di Valeria De Rosa. La Lega l'ha sostenuto in tutte le sedi, questo da tempo, e l'occasione buona è proprio quella del piano regionale di sviluppo, dove si delinea il percorso di governo di 5 anni. Quindi abbiamo ovviamente inserito questo emendamento che riguarda fra l'altro in modo specifico il nostro assessore Gibelli, che ha commercio, e quindi abbiamo convenuto che sia necessario evitare di finanziare e dare fondi a quelle aziende che in Lombardia hanno già pensato bene di andarsi dall'estero a investire. Sarebbe al danno la beffa. Noi diamo i soldi a una ditta che poi va a investire in Romania, in Polonia, e in più licenziano i dipendenti della Lombardia. La cronaca adesso con un episodio gravissimo di malasanità che arriva da Bari. Prima un banale intervento per asportare una cisti. Era il 4 dicembre dello scorso anno all'ospedale civile di Putignano in provincia di Bari. Dimessa il giorno successivo all'operazione Antonella Mansueto, di 22 anni, di Noci nel Barese, studentessa in farmacia, torna in ospedale soltanto per il consueto ciclo di medicazioni. Ma il 6 febbraio le sue condizioni peggiorano, la febbre arriva a 42. Il medico di guardia diagnostica un virus influenzale. All'alba del giorno dopo la situazione precipita e la 22enne viene trasportata di nuovo all'ospedale di Noci. Dopo una lunga attesa, ai genitori viene comunicato che Antonella ha una setticemia diffusa. A quel punto viene portata in un ospedale più attrezzato, sempre nel Barese, ricoverata in rianimazione. Il 22 marzo un'equipe di medici bolognese viene per amputarle le gambe e le dita delle mani. Un ultimo tentativo, ormai inutile. Antonella muore. È il 26 marzo. Ora la procura di Bari indaga sulla sua morte. Il fascicolo d'inchiesta viene aperto per omicidio colposo. Se la setticemia fosse stata diagnosticata in tempo e curata con le medicine specifiche, la ragazza avrebbe potuto salvarsi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla pagina degli spettacoli. Riparte dalla Ciak di Milano la tournée di Biagio Izzo con Un tè per tre. La prossima settimana sarà all'Olimpico di Roma, poi in tutta Italia, perché il teatro, dice, va sostenuto. Io sono produttore di me stesso, quindi investo che guadagno, lo investo in teatro, e proprio perché il teatro va sostenuto, anche perché noi non siamo sostenuti. La prima cosa che si toglie una famiglia è l'ospizio, per cui il teatro è ancora reputato un ospizio, un divertimento, per cui non ci sovvenziona, noi facciamo tutto da soli, ma siamo ben felici di farlo, orgogliosi di farlo, e affrontiamo queste non poche difficoltà, ma il teatro è un amore, una passione, quindi non ci si guadagna, è l'arte dei poveri, ma è un amore, quindi se lo fai con amore sei ripagato molto di più in denaro, sicuramente. È il vetro il materiale più amato dagli italiani, in più fa bene all'ambiente e non nuoce alla salute. Assovetro ha presentato la campagna Nothing, niente da nascondere, per sensibilizzare all'uso del vetro. Testimonial la campionessa olimpica Valentina Vezzali, l'ha intervistata Ambra Notari. Quando mi è stata prospettata l'idea di poter aderire a questa campagna sul vetro, l'ho accolta con molto entusiasmo, anche perché da sempre apprezzo questo tipo di materiale, che è così puro, così tradizionale ed anche eco-friendly. Poi io, che sono una sportiva, cerco sempre un giusto rapporto fra salute e alimentazione, e per me un'alimentazione adatta è quella che utilizza cibi che si trovano in contenitori in vetro. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie in regia a Pietro Lacorte. Adesso c'è Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR 24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.